fossi io, viene lento di vagare, una musica brutale incendiò nostra passione. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi parleremo di una categoria di esseri umani, soprattutto di sesso maschile, oggi parliamo degli uomini nella parte attiva di questo ruolo, che è quella appunto del seduttore. Cosa significa oggi essere un seduttore? Ma forse essere un tronista di uomini e donne, essere un pupattolone ben organizzato dal punto di vista della anabolizzazione del proprio fisico, con un volto sbarazzino e carino da ragazzo di vita contemporaneo, capace di stare al centro di un harem organizzato da una società di casting televisivo e mostrare per il solo fatto di esistere, di essere un modello estetico, quasi stampella in similpelle per abiti, magliette, jeans, accessori, braccialetti, tatuaggi, segnature tribali, egli stesso è seduttore per il solo fatto che esiste, che è il centro, che è di moda. Beh, diciamo che questa figura, che è piuttosto vituperata, dire seduttore dà fastidio. Già ieri avevo messo in Facebook l'idea che oggi avrei parlato di seduttore, sono stato accusato di tutto. Tu vai sempre a pescare nel torbido, vai sempre a cercare gli aspetti sgradevoli dell'esistenza. No, il seduttore è lì, è un'icona scomparsa, è una reliquia d'altri tempi, è qualcosa che la società riesce benissimo a contenere, ad elaborare. Può esistere, può esserci il seduttore, proprio perché oggi la seduzione corre su altre categorie, non occorre più creare un rituale di seduzione, bisogna semplicemente trovare l'incastro giusto, il momento giusto. C'è una tristerrima inchiesta che questa mattina celebra Repubblica in una pagina intera, fatta dall'Associazione Matrimonialisti Italiani, che fa lo spietato specchio delle digressioni sentimentali, delle fughe e delle uscite dal mondo degli italiani. Le scappatelle gli italiani le fanno alle 2 di pomeriggio, nella pausa pranzo dei loro giusti uffici. Al 70% delle coppie sono infedeli, quindi il seduttore esiste, qualcuno seduce, c'è una situazione seduttiva, c'è un'uscita dalla regola, c'è qualcuno che si accorge che esistono attorno a lui esseri umani con fibrillazioni non soltanto legate al profitto, alla necessità di avere rapporti di lavoro, a doversi scambiare frettolosamente informazioni sul prossimo meeting. Ma non è che sia poi l'adulterio la prima causa di separazione, ci sono altre come l'incompatibilità, quindi è tollerato, esiste una versione light anche dell'uscita sensuale dalla regolarità. Ma questo fatto che l'ora preferita sia dalle mezzogiorno e mezza alle 14:30, noi l'avevamo già visto quando abbiamo fatto i luoghi fatali della seduzione. Quindi sembra che ormai tutto quell'apparato di regole per cui il seduttore, se va bene, il momento, l'ora, il luogo, la sottolineatura culinare, musicale per una seduzione, fanno parte di un repertorio, un po' come i musei di civiltà contadina. Beh, inizierei questa puntata, a cui vi prego di partecipare per la vostra esperienza attiva, passiva e anche ironica, anche disincantata. Oggi chi più teme il seduttore, chi più vuole essere sedotto secondo antichi rituali, se non come andare a fare, non so, una cena medievale, un ritorno nel passato così per puro frisson di uscita dal tempo. 800240024, oggi parliamo del seduttore proprio per dimostrare che una figura fortunatamente e meravigliosamente fuori del tempo. Iniziamo con la morte, con il funerale del seduttore. Niente assomiglia a un funerale più di un altro funerale. Eppure questo ha qualcosa di particolare. Non si vede un uomo, unicamente donne, solo donne. Sì, senza dubbio credo che Bertrand avrebbe apprezzato lo spettacolo del proprio funerale. Ecco il momento della verità. Dove sta adesso è ben piazzato per guardare un'ultima volta ciò che più apprezzava in noi. Mi ricordo una frase di Bertrand. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. Inizia L'uomo che amava le donne di François Truffaut, che è un film del 77 molto autobiografico probabilmente, con il funerale di Bertrand Morin, che è il grande seduttore, il compulsivo seduttore, accusato alle donne di infantilismo per la sua mania di collezionismo quotidiano. era affascinato da ogni donna che lui vedeva. E questo lo trasformava in una sorta di mania letteraria. Voleva scrivere il romanzo della sua vita vista attraverso le gambe delle donne, che vedeva come dei compassi che segnavano quasi geometrie sottili nel globo terrestre su cui passavano. E finalmente le donne che andranno al suo funerale, soltanto donne, qualcuna lascia anche il marito fuori dalla porta del cimitero, lo saluta col bacino e va. Un codazzo di donne che vanno a rendere l'ultimo saluto beffardo a Bertrand, che finalmente dalla fossa in cui l'hanno calato con la propria bara può vederle dalle gambe, può vedere quello che lui più, da cui più era attratto dalle donne. E le donne che segnavano questi cerchi misteriosi, sottili, questa sorta di sacra geografia del terreno e del suolo che loro percorrevano, lui ha l'ultimo colpo d'occhio meraviglioso delle donne che amato, non si sa se poi questo sia amore, ma posseduto, voluto, cercato in maniera compulsiva uno dietro l'altro attraverso stratagemmi mirabolanti pur di avere la possibilità di essere considerato da loro un seduttore. Sì, pronto, dica. Vorrei parlare con la signorina Detoy. Attenda, chiamo mia figlia. Martin, è per te lo stesso tipo di prima. Pronto? Sono io. Cos'è questa storia dell'auto schiacciata? Non si inquieti, signorina, non è successo niente. La mia macchina è perfetta. Avevo bisogno di un pretesto per ritrovarla, ecco la verità. Non c'è stato nessun incidente. È accaduto solo che da quando l'ho vista a Montpellier non sono più riuscito a impedirmi di pensare a lei. Avrei potuto parlarle per la strada, ma era così bella. Ero talmente colpito che mi sarei trovato senza voce. Ho faticato a ritrovarla, ma non lo rimpiango. Ero pronto a frugare tutta la Francia. Senta, ho fatto un sacco di strada per vederla. Non mi neghi un appuntamento. Ho bisogno di incontrarla. Ho l'impressione che stia tramando una specie di burla. Dov'è in questo momento? A 5 minuti da casa sua, al caffè Monte Carlo. L'aspetto. Bertrand è fantasioso, Bertrand è imprevedibile, Bertrand osa. Vede in tintoria, mentre sta tentando di sedurre la vecchia tintora, togliendole una cosa fastidiosa dai capelli, una donna bellissima, la vede uscire dalla finestra, la segue, prende la targa della macchina, va all'ufficio del registro automobilistico per avere il nome della ragazza. Non glielo possono dare, a meno che la signora abbia avuto un incidente con l'automobile. Prende e va a sbattere con la macchina contro un pilone di cemento pur di avere il nome della proprietaria con l'automobile. Rintraccia il telefono, rintraccia l'abitazione e le telefona. E dopo 30 secondi scende dall'ufficio e si siede al bar con lui. È iniziato un momento e un cammino che porterà alla seduzione di questa donna. Bertrand è matematicamente certo che basta osare, che in ogni donna esiste la possibilità di essere conquistata. Ogni donna non attende altro, questo è un film in chiave fortemente antifemminista, seconda metà degli anni 70, fatto per dimostrare che le donne liberate, le donne che non avevano più bisogno degli uomini, in realtà cercavano sempre fortemente il grande seduttore. Anche semplicemente per godere al suo funerale. Buonasera. Ma lei chi è? Che cosa fa qui? Per chi mi prende? Non mi fraintenda. Non restiamo qui. Spero si renda conto che mi trovo qui contro la mia volontà. Sono venuta solo per evitare uno scandalo. Mio marito è molto conosciuto nella zona. Ma potremmo bere qualcosa da me, sto a 5 minuti. E va bene. Andiamo pure. Comunque non si illuda di farmi ubriacare. Ah, ma potrà prendere quello che vorrà. Oppure acqua minerale, succhi di frutta. Di quale segno è? Acquario. Torni subito indietro, per favore. Mi hanno detto di diffidare degli acquari. Come vuole. A questo punto non mi resta che salutarla. Vuole usarmi una cortesia? Devo mettere l'auto di mio marito al parcheggio. Il posto non è sicuro, di sera mi accompagna. E naturalmente cederà anche questa signora, che era scesa soltanto un attimo la sera dicendo al marito: vado a sistemare l'auto nel garage. Quindi per Bertrand non esiste mai l'impossibilità, non esiste mai uno spiraglio dell'esistenza di una donna che non possa essere espugnato. Ma lui naturalmente finirà vittima di questa sua mania compulsiva. Ma Bertrand dimostra che comunque esiste un metodo, esiste una maniera scientifica di muoversi nell'ambito della seduzione. Il seduttore ha a sua disposizione delle utility, dei tecnicismi che lui con grande fantasia, con grande senso dell'improvvisazione, di cogliere l'istante, mette a punto. Sembra questa una scienza antica, datata, senza più senso in un momento in cui nessuno ha più bisogno di rituali, liturgie di seduzione, ma esiste ancora, e noi l'abbiamo scovato, la figura quasi che l'avessimo presa da un iceberg, rimasta congelata in epoche che non sono più la nostra, dell'antico seduttore. È Guido Guidi Guerrera. Guerrera, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao Nicoletti. Ci diamo del tu perché siamo amici, ci conosciamo. Io questa marzullesca abitudine di far finta che non ci si conosce, è un collega. E invece abbiamo militato tante volte insieme. Sì, adesso non entriamo nei particolari, sennò sembra che abbia militato in questa tua inaspettata e nuova veste, che è quella del seduttore. Ignoravo che tu avessi anche questa corda al tuo arco, ma tu hai scritto un libro che ti costerà essere cosparso di catrame e piume la prima volta che lo andrai a presentare. Vivere alla grande, galateo postmoderno di seduzioni e tentazione, a Liberty Editore. Come farla cadere ai tuoi piedi in una serata unica. Ecco, tu organizzi e dai tutti i segreti. Penso alla tua esperienza, molto connotata da luoghi fantastici, perché tu le seduci a Venezia, Cuba, Praga, mai a Scandicci, mai alla stazione, mai ai supermercati, come invece, secondo l'inchiesta dei matrimonialisti italiani, accade che si seduca oggi. E dai alcuni consigli molto pratici. Io ti dico subito le prime cose che mi hanno colpito. Per organizzare la serata fatale della seduzione, il seduttore deve naturalmente curare ogni particolare. Ma alcune cose mi hanno messo veramente in allegria. L'automobile deve avere i sedili di velluto e non di finta pelle. Il seduttore deve avere le scarpe impolverate. Quando la porta al ristorante deve dare una mancia al cameriere perché si è accolta da suono di arpe e di flauto di Pan. Ecco, comincia a darmi qualche definizione più precisa su questi tre punti della seduzione che mi hanno molto colpito. Ma guarda, intanto essere seduttori oggi è una specie di disciplina per uscire dall'omologazione, è una palestra così politicamente corretta, per una ricerca del bello, dell'armonia, dell'eleganza, cose che sono completamente ormai sparite. Tu prima dicevi che i seduttori di oggi probabilmente si allenano verso le 2 del pomeriggio e pensano in questo modo di trasgredire. In realtà col panino e la Coca-Cola in mano, naturalmente. In un'atmosfera grigia, in un'atmosfera da lambada del ragioniere, come la chiamo io, che non è affatto trasgressiva, ma rientra in questi canoni abbastanza comuni, abbastanza ordinari del modo così di intendere la piccola scappatella. In fondo non c'è assolutamente stile, perché il seduttore è un poeta e, come dice Franco Cuomo in un bel libello che ha scritto tanto tempo fa, molto interessante, si chiama L'elogio del libertino, il seduttore, oltre ad essere un poeta, è anche un angelo, è un santo, tant'è vero che non esiste santo che abbia rinunciato alla tentazione di farsi tentare, e quindi c'è sempre questa componente, no? Poi alla fine catartica, perché il santo a sua volta poi diventa seduttore, si fa tentare e diventa seduttore. Però diventa, scusami Guido, una professione, perché richiede tanto tempo e tanta organizzazione. Io ho provato a proiettare in una mia media giornata attitudine mentale, un atteggiamento che viene assolutamente spontaneo e che non ha niente a che vedere con l'artificio. Diamo qualche istruzione tecnica e vediamo come opera il seduttore. Seduttore consideriamo una figura astratta e poetica, non voglio dire che questo sia frutto delle tue esperienze personali, perché non voglio crearti problemi in famiglia, però diciamo che il modello che tu hai studiando testi e analizzando sul territorio, messo a punto, richiede comunque una preparazione ben dettagliata. Dal tuo punto di vista, cosa deve fare oggi il seduttore? Il seduttore è veramente se stesso. Il seduttore usa determinate, con estrema autoironia e con grande rispetto della donna, perché anzi nella mente del seduttore, del libertino, così come viene chiamato in gran parte della letteratura, la donna ha una posizione di assoluta supremazia, e allestisce tutto un rituale, prefigurando anche quello che è il tempio d'amore d'elezione, che è un buon ristorante, perché in genere una buona cena è preludio di altre prelibatezze. Insomma, in questo modo il seduttore mette tutte le condizioni per poter essere lui stesso vittima di questo meccanismo. Ecco Guido, non dimentichiamoci che il seduttore è anche vittima. Voglio dire una cosa, oggi chiunque invita a cena è invitato a cena. È ipocrita, mellifluo, fuori dei tempi, far credere a una persona che si vuole invitare a cena soltanto per mangiare assieme. Però tutti lo fanno, ci vediamo a cena, usciamo a cena. Ecco, invece il seduttore vero fa capire che esattamente la sua intenzione è quella di una meravigliosa avventura amorosa, sensuale, e non soltanto quella di andarsi a mangiare il sushi assieme. Ma sì, sicuramente. ovviamente, certo, certamente, e proprio fa parte della del meccanismo di, come dire, di circuizione, se così possiamo dire, di questa apparente vittima che viene in ogni caso lusingata e messa nelle condizioni lei stessa di sottomettersi a questo finto boia con estrema tenerezza e con tutta la sensualità del caso. Non ci sono mai resistenze, non ci sono mai, è un gioco a due fatto veramente sul filo della vera ironia. Oggi si parla tanto di ironia perché non si capisce più che cosa sia davvero. Sì, ma nessuno è ironico sulle vicende che riguardano la relazione, soprattutto la relazione sensuale. Nessuno sa essere ironico, lì si è tutti tranchant. O è una cosa oscena, schifosa, indicibile, o è qualcosa di cui naturalmente si parla in termini clinici oppure in termini medici, in termini... Sì, ma è adesso così, ma non è nella mentalità del seduttore, che comunque in genere è una persona di istruzione alta, una visione della vita molto profonda, non si lascia ingannare dai meccanismi di moda, esce dalle mode e esercita la propria mente alla palestra della seduzione, che è una specie di percorso quasi di tipo conoscitivo, ecco, in fondo. 800 24 00 24, abbiamo fatto parlare il seduttore, che ha spiegato che comunque una figura dei modè, fuori del tempo, un esteta, è qualcosa che deve pur esistere, perché esista ancora il senso di antiche e letterarie, poetiche sensazioni, ma oggi probabilmente è malintesa questa figura. Nicola, buongiorno. Spenga la radio, Nicola, sento l'eco della mia Pronto? Voce. Eccomi. Nicola, lei è brutto di natura, ma seduttore ed espertissimo, mi sembra, in realtà, come applicazione di una tecnica di seduzione. Scusi un attimo, mi devo fermare perché sto guidando. Purtroppo mi ha preso un momento in cui c'è una coda. Sarà occupatissimo, mi rendo conto che il seduttore aspetta, non ha mai il telefono disponibile. Ecco, sì, no, attendiamo. Parlare, sì, quando lei si è accomodato, non voglio che crei incidenti, sì, sennò finisce come... Oppure dietro una pattuglia dei vigili, aspetti un attimo. Sì, perché Bertrand, il protagonista del film di Truffaut, muore proprio in un incidente automobilistico, seguendo con l'occhio contemporaneamente due donne, non poteva fare anche questo, non vorrei che lei, per colpa... Sì, sono fermato. Si è sistemato in zona di sicurezza? Sistemato. Poi lei sarà bravissimo a usare il telefono in maniera clandestina, quindi... Non potrei neanche usarlo, perché già non mi hanno visto, se non mi danno una multa. Ma no, se lei si ferma può usarlo. Lei si accosta a bordo strada, può usarlo il telefono. Sì, ok. Adesso sì, ok. Niente, allora, ho sentito appunto l'intervento... Lei è uno di quelli che seduce? Ma io dico più che seduttore, mi sento un induttore, cioè nel senso... Ci spieghi la differenza. Seduttore vuol dire, condurre a steno, sì, certo. È un latinismo. Però diciamo che per me non esiste proprio, secondo me, un'arte della seduzione. Io ho detto alla signora che prima mi ha chiesto il numero di telefono che sono molto brutto, è vero, non sono bello. Però ho avuto sempre una certa fortuna con le donne, ma non che la bruttezza di per sé stesso sia, diciamo, un motivo, diciamo, un incentivo valore, diciamo, a darsi da fare. Certo. Diciamo che ho fatto sempre molta fatica, proprio per questa mia, diciamo, non dico handicap, non sono proprio a livello, diciamo, che ne so, di Quasimodo, di Notre Dame del Paris, non sono a quel livello lì. Comunque diciamo che certo non sono bellissimo, Però ecco, il discorso infatti della poesia, dell'essere poeta, di fare un qualcosa per colpire una donna, proprio perché tu hai questo, diciamo, tra virgolette, disabilità fisica, possiamo dire. Ecco, ma qual è il segreto? Bisogna rompere una consuetudine, fare un gesto imprevedibile. Bisogna essere omologati, innanzitutto, come diceva giustamente l'autore. Il maestro Guerrera, che ha scritto Vivere alla Grande. Esatto, non bisogna essere assolutamente omologati, bisogna avere un po' di fantasia e soprattutto comporre anche qualche poesia. Ecco, diciamo che va questo, bene, guardi, le giuro, non avrei mai usato una cosa del genere. Sapere che la poesia ancora ha senso, la poesia così. La poesia colpisce, glielo posso garantire, però deve essere tua, non deve essere la poesia di altri. Cioè, non devo dire a una donna che ti recita una poesia di Leopardi. Beh, essere poeti mica è una cosa che si apprende, no, così. Diciamo, ma io non è che mi sento poeta, così in certe occasioni ho così buttato giù delle righe che ho notato che erano gradite. Poi... Quindi lei ha sempre pronto, diciamo, un promemoria di poesie per l'occasione, questo sì, non mi dica che le vengono così spontanee al momento. No, non può, non verrebbero neanche il più grande poeta. Mendice, solo un verso che secondo lei dischiude ogni porta, anche la più sigillata, solo per capire, così ci attrezziamo e magari qualche ascoltatrice ci dice la reazione. Questa io è una poesia che avevo fatto così molti anni fa, che si intitola Manchi. L'accenni soltanto, poi vorrei che appena passata la pausa della borsa, all'800240024 ci chiami qualche ascoltatrice e ci dica, come se fosse in realtà una cavia umana, qual è stata la reazione che ha avuto per questa poesia. Prego, a lei il microfono. Però questa è una poesia che presuppone già la conquista. Perché già Troppo facile, sì. Vabbè, vediamo un po'. Comunque, se vuole, gliela posso dire. Sì, sì. Ho sentito l'Amanti, bella, bella, a te canto, che incedi con amore, su me ignudo che ti osserva, ai lamenti d'agnello dei tuoi suoni impertinenti, adesso non me lo ricordo, sono molto emozionato. No, io direi che mi fermerei sul me ignudo che ti osserva. Melog 2.0. Ai ai ai, lo immaginavo che il seduttore poeta ignudo non avesse poi grande fortuna. Le nostre ascoltatrici, poche mi hanno telefonato per dirmi di essere colte da un fulmine di sensualità, ancor meno quelli che vedo scrivere su Facebook sono stati colpiti da quella poesia. Ma probabilmente funzionerà in diretta, funzionerà di viso, funzionerà seguendo il filo delle atmosfere e non biecamente storta la radio. Stiamo parlando di seduzione, anzi del seduttore, siamo precisi, figura che sembra ormai connotata di un alone romantico, non più esistente, non più possibile. Lo facciamo con Guido Guerrera, autore di un manuale del seduttore, Vivere alla grande, galateo postmoderno di seduzioni e tentazioni. Lo facciamo con il nostro pubblico che in questo momento sta intervenendo numeroso, si è aperto un dibattito su Facebook, chi sia veramente il seduttore. Sembra di capire che seduttore è colui che riesce a capire quali sono le esigenze del proprio bersaglio, si adatta, è un essere liquido alla Bauman, è qualcuno che riesce a essere come un supereroe, capace di infiltrarsi in tutti i meandri, in tutte le fessure, in tutte le aperture, in tutti i luoghi in cui la pudicizia ha lasciato via libera. Beh, questo è il seduttore. Ma cos'è il seduttore dal punto di vista di colei che lo vede come un essere ridicolo e affannato in un'operazione che sarà senza senso? La vittima abituale del seduttore è una persona che non si immaginerebbe mai di incontrare il seduttore. Ma colei che è abituata a vederne tanti intorno, mosconi, provoloni, chiamateli come volete, arraffazzonati e dilettanti, l'arte della seduzione, così le definisce e così ce li descrive. Io ho 30 anni, ho alternato periodi in cui ero fidanzata ad altri in cui ero single come adesso, ora lo sono da circa un anno. In quest'ultimo anno ho avuto modo di saggiare le capacità seduttive degli uomini. Sicuramente il metodo più usato è quello della lusinga, del dire sempre le solite cose: sei una persona speciale, sei molto intelligente, sei molto simpatica, non si incontrano facilmente persone come te. Ma alle lusinghe non ci credo molto, più o meno le frasi sono sempre le stesse. Il bello è che mentre mi fanno tutti questi complimenti io mi accorgo che in realtà mi fissano, perché continuano a guardarmi insistentemente negli occhi. Visto che ho un fisico molto procace, insomma sullo stile della maggiorata degli anni 50, questo fissarmi negli occhi è assolutamente innaturale. Questa ragazza, che è molto prorompente, procace, capisce che il seduttore da manuale è colui che guarda negli occhi. Ma perché, guardate, mi sono scaricato dalla rete, mi sono fatto stampare una sorta di manuale, non ho ben capito, è una specie di setta New Age, non so, si chiama PUA, Pick Up Artist, che è una sorta di luogo in cui insegno ad essere seduttori, con dei gradi di progressione nell'arte della seduzione che va da 1 a 11, e spiega come sedurre le donne. E pare ci sia un metodo, si va lì, ci sono i maestri, il training, tu paghi e ti insegnano via via come fare. Il livello più avanzato è che uno va per strada, chiunque vede, dalla tassista alla vigilessa alla pin-up, è capace di sedurla, e dice che bisogna cominciare a guardare degli occhi. E infatti, vedete, la maestra nell'arte dello sgamamento del seduttore capisce subito che uno che ti guarda negli occhi è uno che c'ha il manualetto comprato alla stazione, quindi non avrà assolutamente nessuna fortuna. Beh, un altro classico assoluto è quello del ritardo calcolato, cioè di quello che ti conosce nei contesti più vari, dall'aperitivo alla festa privata, e poi inizia col chiedere il numero di telefono e manda un messaggio. Poi la donna risponde e lui risponde a suo modo, però con i suoi tempi. È una sorta di ritardo calcolato in cui entrambe le parti devono dare risposta, ma mai troppo presto. Ed è veramente urticante, fastidiosissimo, perché altrimenti si mostra troppo interesse. E poi soprattutto la donna non deve mai mandare un messaggio, perché altrimenti l'uomo si sente subito soffocare. Quindi deve al massimo rispondere, ma mai dare lei il primo contatto. Guardate com'è stereotipato poi anche l'uso di quelle che chiamiamo le protesi emozionali. Non esiste scardinatore della virtù, della pudicizia, della tenuta morale più potente che il messaggio breve, il centum esagentametro, come lo definiamo, i 160 versi che sono capaci di creare un poema capace di sedurre qualunque impiegata, qualunque parrucchiera, qualunque dirigente d'azienda, semplicemente mandando in momenti inaspettati il messaggino. Ma la signora che se ne intende sa perfettamente che ormai questa è una tecnica. Anche il ritardo nella risposta è calcolato, vuol far vedere che quel seduttore da scrivania è sin troppo indaffarato, non è desideroso di concludere quella storia, anche se sta lì con la bavetta sulla tastiera ad aspettare che lei risponda. Una volta mi è capitato, dopo una festa, che una persona mi abbia telefonato alle 3 di notte chiedendomi se ero arrivata a casa. A parte il fastidio del ricevere una telefonata alle 3 di notte, effettivamente ero arrivata a casa e volevo anche dormire. Poi ha parlato esclusivamente di sé, raccontandomi che viveva in un attico nel centro di una città molto importante, valore stimato dell'immobile più o meno 3 o 4 milioni di euro. Insomma, doveva farmi sapere che era una persona molto ricca, cosa che mi ha dato molto fastidio, perché io non penso di essere una persona in vendita. C'è l'approccio molto diretto, quello che addirittura anche prima della cena propone direttamente il dopo cena, ed è veramente squallido. Non c'è proprio la seduzione, però ce ne sono parecchie di persone così. È disincantata, smaliziata, sembra ormai che abbia passato chissà quante battaglie, e sul bordo stanco, guardando e contemplando i cadaveri delle sue vittime, può dirvi quelli che sono i punti deboli del grande seduttore. Sì, l'ostentazione della ricchezza, del benessere, del brand, della possibilità d'acquisto. Devo dire che è una delle più grezze, burine maniere che ci sono per sedurre, ma devo anche dire che ci sono molte donne che si sentono molto affascinate, che sentono i racconti dal ristorante, dalla scelta di gusto, dall'automobile. C'è chi affitta l'automobile di lusso e di status soltanto il sabato sera per fare l'uscita formidabile. Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Finalmente una donna che ha il coraggio di telefonare, sembrano tutte nascoste. No, non credo che sia un problema di coraggio. Io stamattina avevo 10 minuti e l'ho dedicati volentieri. L'ascolto spesso perché viaggio molto in macchina, quindi ho l'opportunità di ascoltare. Cosa ne dice di questa ricerca antropologica del seduttore? Dunque, io stessa sono abbastanza seduttrice, quindi mi riconosco in molte cose che sono state dette, specialmente dal signore di prima. Ecco Emilia, ma quando una seduttrice incontra un seduttore cosa succede? Un cortocircuito? Scappano via? Di solito non ci si attrae molto tra seduttori. È un po', se posso fare un paragone un po' forzato, un po' come tra cani... Cani e gatti. Che sono, no, cani dominanti. Quando si sente questo dominio, o viene una cosa travolgente. Mi è successo una volta a Genova, diversi anni fa, mi è successo di trovare un seduttore e insieme c'è stata una cosa velocissima ma molto travolgente. Beh, grazie, mica potete perdere tempo con i preliminari, siete dei professionisti. infatti. A proposito di questa cosa che lei ha notato, il preliminare, cioè tutte quelle attenzioni che vengono non affettate ma spontanee, che si sentono a pelle da parte del seduttore, sono un preludio, cioè fanno scatenare una serie di fantasie nella donna, dove pensi che appunto quelle attenzioni spontanee siano poi dolcissime nell'intimità, comincino a diventare... Ma se tanto mi dà tanto, immaginiamo dopo. Esatto. Senta, esatto. Ma allora posso... Io nel manuale di questi seduttori da stazione leggo che bisogna fingere di guardare un anello, un braccialetto per riuscire almeno a sfiorare, avere il primo contatto fisico con la mano della donna. È allora, giusta questa storia? Sì. Ma Dunque, se la donna è veramente sensibile e se una donna è sessualmente, insomma, interessante, le finzioni le sente, le avverte a pelle. Il seduttore, quando ha trovato, diciamo, tra virgolette, la sua preda, la sua vittima, sicuramente ha anche capito che è piuttosto cioè c'ha delle sensibilità, le avverte, quindi starà ben attento a non scoprirsi, se no il gioco diventa banale. Ecco, ma ci sono degli aspetti patetici del seduttore, secondo lei? Immediatamente il seduttore, circoscrivibili. Il seduttore che ostenta ricchezza, o cioè deve essere una spontaneità, anche lo sguardo deve saper scivolare nel posto giusto, al momento giusto, cioè ci sono è difficile, credo che sia una cosa piuttosto difficile. Ecco, resti in ascolto un attimo, Emilia, perché voglio metterla a confronto invece con Guido Guerrera. Guido, hai sentito una vera professionista, qualcuna che potrebbe portare via spazio vitale al seduttore? Sei d'accordo con quello che dice la signora? Ah, profondamente. Viceversa, mi è sembrato che la signora che tu hai intervistato sia caduta in una banalità, e lei stessa proprio in quelle triste Cristo pecoricciume, mi si consenta il termine, di affrontare questa tematica. Ci sono livelli e quote ben diverse e apprezzamenti completamente opposti, anche se noi nominiamo le cose con gli stessi termini, è tutta questione di misure, è tutta questione di dettagli che poi fanno invece la grande differenza. E invece oggi noi tendiamo ad amalgamare tutto quanto e a chiamare tutto con lo stesso nome, da qui poi il manuale da operetta che esce su internet e che sembra quasi un corso per fare la maglia, insomma. Esattamente. Ecco, ma proprio una battuta prima di passare la linea alle informazioni per il traffico: un vero seduttore che si trova di fronte come vittima una signora così attrezzata, come si comporta? Ma un vero seduttore non ha delle regole, per cui un vero seduttore soprattutto fa appello alla propria eleganza, al proprio stile, a quell'armonia di fondo che connota ogni suo gesto e ogni suo pensiero. Diciamo che seduce per questo e non perché guarda negli occhi oppure svia dal décolleté per qualunque altro motivo. Un seduttore riesce a creare un mondo rotondo fatto di circostanze che accarezza e che poi diventano piano piano realtà. Dall'astrazione andiamo alla realtà, e la realtà che crea magicamente si realizza. Soffermiamoci sul mondo rotondo del seduttore. Melog 2.0. Amor mio, ti prego, lascia che io ti tolga quei panni troppo severi, che così poco si addicono al nostro incontro d'amore. Se farai bene il tuo dovere, lui non si annoierà. Annoiarsi? Con me? Ma sarà sbalordito. È davvero? Mai avrà visto la tua femminilità, le tue grazie messe in maggior luce da un amante così ben educato. Ben educato, poi no. È un'offesa. Quando mai due amanti in furore si preoccupano della buona educazione? E allora sarò solo delicato. Piccolo saggio di letteratura libertina, il Casanova rivisto da Fellini, accentuato nella fase in fondo di decadenza, di vecchiezza, alla fine la donna che più amerà nella vita, l'unica donna che riuscirà a inquietarlo, Henriette, sarà ridotta a un simulacro, a una sorta di bambola. Tanto per lui è importante avere la possibilità di rappresentare se stesso nell'atto di essere seduttore. La risposta non è importante, cosa dica, cosa pensi. La donna è nient'altro che il pretesto passivo della sua possibilità di esprimere l'arte seduttore, ma ancora ragione, ancora senso. Questo orpello, questa sorta di letteraria visione della seduzione, ancora senso in un momento in cui certi rapporti vengono velocizzati, vengono concretizzati in tempi così ridotti. tutti. Io sono abbastanza profondo stato nell'osservazione dei sistemi indiretti di seduzione, quanto le macchine oggi diventino in realtà dei supporti alla seduzione o dei condensatori di tutta questa arte, questa letteratura, questa metodologia per il lento, controllato e condiviso cedimento della figura femminile. Oggi questo potrebbe avvenire soltanto nel giro di 10 minuti, di un quarto d'ora, semplicemente scambiandosi dei messaggi tramite il computer. E cosa è cambiato nella nostra società? Beh, rimane comunque l'occhio attento e spietato di una vittima, non più possibile ad essere vittima del seduttore, che è la nostra ascoltatrice, che ci ha raccontato come lei vede questa quasi arcaica maniera di prodursi nell'arte della seduzione. Il problema è che ti vengono a prendere e ti chiedono se vuoi essere presa a casa, ed è già terribile perché uno lo dovrebbe proporre, basta, non chiedere se uno lo vuole. È bruttissimo quando non hanno scelto il ristorante, cominciano a chiederti dove ti porto, cosa vuoi mangiare. Se io invito un uomo a cena, io invento una serata per quella persona, perché quella persona mi interessa. Quindi l'ultima cosa che un uomo deve fare è chiedermi dove voglio andare. Eventualmente mi deve fare due proposte. Devo dire che la richiesta e l'esigenza di una qualità, di una diversità dell'uscita di una prassi di questa nostra amica va perfettamente a collimare quello che è con la teoria dell'estetica della seduzione di Guido Guerrera, che dice che è sempre una scelta di altissimo gusto, la scelta del ristorante, la scelta del menù, la scelta delle musiche, la scelta addirittura della fodera, del sedile, dell'automobile. Da una parte c'è l'estremo bisogno di una ricerca estetica nella seduzione, per far sì che sia un atto estremo, un atto unico, e d'altra parte c'è un po' la noia, un po' il tedio, un po' il fastidio voler entrare sempre in questi rituali. Non sarebbe più semplice dirselo subito, comunicarsi subito la reciproca esigenza, capire subito che c'è una volontà reciproca di uscita dal mondo e poi definire insieme quali sono le metodologie? Ma forse oggi abbiamo ancora bisogno, noi antichi, ammuffiti, invecchiati, occidentali, di qualcosa che assomigli a una ritualità e una liturgia anche nella seduzione. Molti parlano tanto di sé, proprio tanto, in realtà non sono minimamente interessati alla persona che hanno davanti. Parlano di sé, dei propri successi professionali soprattutto, quindi fanno un ampio marketing di se stessi, però in realtà è un marketing pessimo. Alcuni sono molto spiritosi e quello è una cosa sempre ben accetta, perché passare una serata piacevole fa piacere a chiunque. A volte sono troppo spiritosi, si vede che raccontano sempre le stesse cose. Infatti a volte mi è capitato, nel sentire determinati racconti, di prendere in giro l'uomo in questione dicendogli: vabbè, questa al primo appuntamento la racconti sempre, vero? E devo dire, però, sono stati abbastanza ironici, perché colti in flagranza di reato hanno detto che sì, effettivamente era un racconto che facevano tutte le volte. Mi diverte vedere su Facebook alcuni compassati e distanti signori che stanno lì e disquisiscono di quanto sia banale, quanto sia frivola, quanto sia fuori del tempo la seduzione, e poi stanno facendo i provoloni con le ascoltatrici che stanno lì per commentare la trasmissione. Quindi il seduttore si moltiplica e si definisce attraverso diverse modalità, ma rimane sempre questo accanimento comunque esistere nell'immaginario altrui. Avete sentito cosa ha detto? Non parlare mai per luoghi comuni, fuggire dalla manualistica. Ognuno di noi ha delle storie fatali, tale la propria vita, che usa in certi momenti. Avevo un amico, ho degli spunti biografici, che raccontava sempre, quando voleva fare colpo, che ad esempio era orfano e piangeva su questa sua orfanità. La madre era sempre scomparsa poche settimane prima, ma in realtà era viva e vegeta, e piangeva e si macerava su questo. Altri piangevano una moglie, quindi una vedovanza in realtà che non esisteva. Altri ancora dei disastri economici. Io ricordo un amico ai tempi del neghittoso passare lungo il corso della città di Perugia, che raccontava sempre che lui aveva allora 5 milioni di debiti, ma negli anni 70 erano tantissimi. Cioè, devo suicidarmi, guarda, la mia ultima sera, ho 5 milioni di debiti, sono un essere schifoso, devo suicidarmi perché non ce la farò domani a affrontare questo problema. E lei, naturalmente, da Croce Rossina, da mamma, da sorella, da infermiera, da psicopompa, lo accompagnava mano nella mano verso la possibilità di salvezza e redenzione. C'è la tecnica del purtroppo non trovo la donna per me, ci sono quelli che si piangono addosso, che sono veramente carini, quasi commoventi, perché continuano a dire che loro cercano la donna della loro vita, però non la trovano, che loro sono affettuosi, insomma dipingono se stessi come il compagno ideale. Una tipologia è quella del seduttore ciclico, che cioè dopo un po' di tempo che non ci si vede più, torna, si rifà vivo, magari con un messaggio in cui ricorda i momenti meravigliosi passati insieme. L'obiettivo reale solitamente è un nuovo incontro, una sorta di amicizia erotica sullo stile dell'insostenibile leggerezza dell'essere. In generale ci sono due tipologie, ci sono i trogloditi che fanno delle proposte esplicite, oppure quelli che cercano di mettere in atto delle armi di seduzione, che però in fondo sono già viste e riviste, sono quasi sempre le stesse, per cui a meno che la donna non sia proprio una cretina, bene o male se ne accorge. E poi c'è la categoria più frequentata dei laceri, stanchi, nevrotici, spossati, maschi quotidiani che, ahimè, stanno lì e aspettano quello che passa al convento. Carlo, buongiorno. Buongiorno Luca. Scusi, l'ho fatta stare tanto tempo al telefono, ma volevo che lei ascoltasse questa signora. Va bene così, io sto lavorando, va bene così. Che lavoro sta facendo al telefono? Non faccio il telefono, io lavoro, faccio l'artigiano. Ah, perfetto. Dunque lei... L'artigiana del volante. Ah, quindi sta guidando, va bene. No, sono fermo in questo momento. Allora, lei mi dica dall'alto la sua esperienza molto velocemente cosa le è accaduto. La seduzione per lei equivale al ballo figurato con una dama. Io mi lascio sedurre. E quanto balla? Prima di tutto bisogna andare a ballare ben vestito, saper ballare. E io vado con la moglie. E naturalmente... Ma che seduce? Si porta la moglie? Seduce sua moglie ogni volta? No, ma io poi sono un lavoro che non mi controllo la moglie il giorno ma dopo. Ma poverina, guarda, cosa orribile, dice la porta a ballare, poi fa la rimanda a casa, dice adesso va a casa. No, quel giorno lì io vado a casa con la moglie, tutto bene, ma naturalmente poi ci vediamo il giorno dopo con l'altra. Beh, lei è un infame, scusi, queste cose vanno oltre anche il mio cinismo. È una cosa bella perché poi si fa anche l'amore con la moglie, perché si sente... Sì, ma la moglie magari preferirebbe non essere coinvolta come... La moglie ha capito in qualcosa, vuol perdermi. E una sera stavamo ballando a un posto e ballavo con una bellissima donna e questa donna ha detto, si faccia più di là che sto ballando con questo signore, e ballavamo il cha-cha-cha. Devo dire che lei ha 75 anni, sennò la gente pensa che, dico per completezza di informazione, quindi va bene. Allora questa dice, ma questo è mio marito, dice, lei che è fuori posto, dice, me lo faccio suo marito, naturalmente la guarda, gli sorride, finisce lì. Ma la cosa più carina mi è capitato, l'altra domenica ballavo con una donna il tango. E naturalmente col tango... Lo sappiamo, siamo documentatissimi su questa cosa. E allora la signora mi dice, vacci piano, perché la mia polveriera sta prendendo fuoco. Io la guardo negli occhi e dico, non si preoccupi, ho un ottimo estintore, spegne tutti i fuochi. Bellissima, questa diciamo ci ha provato prima il primo seduttore con la metafora di lui nudo, ma questo della donna che descrive il crogiolo della propria passione come una polveriera, e considerata l'età 75 anni dall'idea di qualcosa di polveroso, ma sorpassiamo su questo, ma lei che la gloria della sua passione virile la chiama estintore, mi fa pensare che in fondo abbiamo speranza che ancora l'uomo durerà su questa terra per un bel po' di generazioni. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.